Piccola vagabonda, regina della strada, quando la notte fonda, scendi nella contrada, vendi i tuoi baci ridi, mentre ti piange qua. Dalla mamma abbandonata, una bimba appena nata, una notte fu trovata in un misero cestino, era tutti sconosciuta, nella strada era cresciuta, or nel vizio s'è perduta, era questo il suo destino. Vendi tuoi bacini mentre ti piange qua, e nel dolore tu sei gioconda, piccola vagabonda, piccola vagabonda, regina della strada. Mentre ti piange qua.